Dovete scegliere il legno con la densità più bassa, che si calcola dividendo la massa per il volume. Ogni legno ha una massa di 10 kg e i volumi sono rispettivamente: abete, 2 metri cubi, castagno, 3 metri cubi, faggio, 4 metri cubi. Quale di questi ha la densità minore?